Questa bella ciao di Milva si inizia la mini pumeur di oggi. E il femminismo è sempre antifascista, se no è un'altra cosa. Sì, è la seconda puntata, abbiamo preso gusto, ne faremo forse anche una terza. In questa seconda puntata analizziamo un pochino più dal punto di vista storico che cosa ha significato il fascismo per le donne e appunto che considerazione il fascismo aveva per le donne. La prima cosa che diciamo, e poi la andremo a spiegare nel corso della trasmissione, è che appunto la misoginia, le concezioni antifemministe furono parte del credo fascista esattamente al pari dell'antiliberalismo, del razzismo, del militarismo. Il dominio fascista fu qualcosa di diverso dal patriarcato liberale del XIX secolo, fu un sistema nuovo di sfruttamento a base sessuale che rispondeva appunto alle strategie di consolidamento poi del potere nazionale. E appunto per parlare di questo nuovo sistema forse facciamo un passo indietro e vediamo molto brevemente qual era l'eredità del patriarcato liberale. E in generale, vabbè, lo sappiamo, l'unificazione dell'Italia aveva ancora delle forti divisioni regionali, culturali, di classe, l'opinione pubblica era molto instabile, l'industrializzazione era in ritardo e non uniforme. Le donne subito dopo la prima guerra mondiale in Italia erano il 30% della forza lavoro industriale. In generale in Europa era nato il movimento d'emancipazione delle donne, i movimenti suffragisti sostanzialmente chiedevano il voto, questo già prima della guerra, poi dopo la guerra le donne entrando nel mercato del lavoro hanno acquisito una consapevolezza del loro ruolo sociale e anche appunto lavorativo, e quindi in Europa in generale i movimenti suffragisti dopo la guerra hanno contato appunto diverse adesioni di donne, perché furono mobilitate dall'economia appunto di guerra, e quindi i governi europei occidentali liberali, diciamo, si trovarono subito di fronte, subito dopo la prima guerra mondiale, alla sfida sia della democratizzazione da una parte, quindi il voto per esempio alle donne, e sia davanti a quella che poi fu definita la questione demografica, su cui il fascismo poi fece, diciamo, leva ampiamente. I governi liberali però non consideravano affatto le donne soggetti di diritto, o in generale forse proprio non le consideravano per niente. C'era una legge del 1865, per esempio, che era questa legge Pisanelli, che affermava l'interesse dello Stato nei confronti della famiglia, ma rafforzando solo l'autorità maschile. Le donne erano di fatto escluse dalla maggior parte di tutti gli atti giuridici e commerciali, non potevano essere tutrici dei figli, dovevano fare qualunque cosa solo con il consenso del capofamiglia maschio, quindi patrimoni, eredità, doti, qualunque cosa a livello giuridico dovevano avere appunto il consenso del capofamiglia. Poi nei primi del Novecento, in generale in Europa, i governi liberali divennero più paternalistici, insomma si cominciarono in Europa ad approvare delle riforme, diciamo così, atte a proteggere le donne, ovviamente in quanto madri. Ovviamente queste riforme rispondevano all'esigenza di difendere la purezza razziale o anche di salvaguardare i salari maschili. In Italia il governo italiano del 1902 promulgò questa legge Carcano, che stabiliva per le donne e per i minori una giornata lavorativa di massimo 12 ore, vietava comunque alle madri di tornare al lavoro prima di un mese dal parto, e poi anche rendeva l'adulterio un crimine soltanto femminile, diseredava tutti i figli illegittimi, quindi nati da unioni adulterine o incestuose, e quindi insomma era una legge pesante anche per le donne, piena di eccezioni innanzitutto, e poi ovviamente il controllo anche sulle 12 ore di lavoro era quasi impossibile di fatto da praticare. Quindi sostanzialmente lo Stato liberale non le considerava proprio le donne, e l'unica o altro, diciamo, istituzione che invece in qualche modo le teneva in considerazione era la Chiesa. La Chiesa di fatto, ovviamente, è contraria ad ogni tipo di emancipazione, fortemente antifemminista, però comunque parlava delle donne, cioè si figurava in Italia come l'unica forza che, molto in modo paternalistico appunto e protettivo, considerava comunque in qualche modo le donne, ovviamente come madri. Per cui in Italia il nascente movimento femminista, che poi era poco numeroso, sostanzialmente non unito, anche poco combattivo, sviluppò da subito un rapporto antagonista con i governi, con le istituzioni e l'ideologia liberali. Alcuni gruppi di donne si unirono al movimento socialista e alle donne della classe operaia, la maggior parte però appunto si legarono alla Chiesa Cattolica. Nel 1903 nasce questo Consiglio Nazionale delle Donne Italiane, le cosiddette femministe pratiche. Erano sostanzialmente delle femministe borghesi che cercavano il riconoscimento da parte dello Stato italiano attraverso l'esaltazione del loro ruolo materno, diciamo una missione proprio materna nello Stato italiano, e si sacrificavano appunto con queste opere filantropiche, e questo era vista come una possibile premessa alla concessione di diritti civili, che poi di fatto non sono mai arrivati, insomma. E quindi il movimento, insomma, in Italia era, ecco, sostanzialmente assorbito in buona parte dalla Chiesa, o comunque le donne che ne facevano parte erano sostanzialmente borghesi, esprimevano questo fervore patriottico e il familismo, che erano tipici, insomma, delle classi medie italiane. E appunto l'elite liberale, nonostante le grandi opere filantropiche e gli sforzi di queste donne, non concessero loro il voto, non lo fece neanche il fascismo, a dispetto di quello che andava proclamando all'inizio. E comunque questo più o meno è il quadro nel quale si inserisce appunto il fascismo. Sì, mentre in altri paesi europei di fatto questo obiettivo del voto viene raggiunto proprio in questo periodo, insomma, proprio per marcare, insomma, la differenza con quello che poi è stato sia diciamo il sono stati i governi prefascisti e poi i vent'anni di fascismo in Italia rispetto a altre democrazie borghesi europee, comunque insomma negli stati scandinavi il voto si ottiene già prima della prima guerra mondiale, in Inghilterra, negli Stati Uniti si ottiene subito dopo la fine della guerra, in Italia nel 46, ecco. Eh sì, infatti il movimento diciamo così femminista, quel poco che era appunto in Italia, ripiegò invece piuttosto appunto le energie molto assorbite poi sostanzialmente dalla Chiesa. Il fascismo quindi nasce inizialmente come movimento, si prefigura così con tutte le sue teorie futuriste e sfruttò proprio questo desiderio di riconoscimento sociale da parte di numerose, bisogna dirlo, donne borghesi furono quelle che si avvicinarono in un certo senso al fascismo, innanzitutto perché appunto il fascismo criticava molto il governo liberale, appunto la sonnolenza nel quale il governo liberale stava ripiegando, insomma, e il disinteresse liberale in generale. Loro ovviamente erano per una disciplina delle associazioni locali, insomma, e promettevano in qualche modo anche per le donne un inquadramento, un ruolo riconosciuto. Ovviamente questo in chiave antifemminista, perché basta leggere insomma le formulazioni dei fascisti della prima ora, insomma il futurismo con la sua sfida alla morale contro la famiglia borghese, addirittura all'inizio loro si dissero a favore del divorzio, cosa idea che cambiarono quasi immediatamente. Comunque, sul futurismo, scusate, prego. Si può forse leggere una brevissima citazione proprio di Marinetti che sembra insomma riassuntiva di queste loro posizioni che proclamavano come rivoluzionarie. Noi vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie d'ogni specie e combattere contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà opportunistica o utilitaria. Esatto, quindi lascia pochi dubbi anche proprio l'origine, anche nel suo primo nella sua prima fase. Marinetti del resto era quello che aveva scritto Il disprezzo della donna, eccetera, e poi tutte le teorie del superomismo, appunto il superuomo, eccetera, che è incarnato anche da Mussolini. Quindi insomma già dall'inizio forse se ne poteva ampiamente diffidare, insomma. Però visto che si proponeva come forza eversiva in un certo modo e poi all'inizio anche a favore del divorzio, proprio per smantellare la famiglia borghese, alcune donne borghesi abbracciarono insomma diciamo con interesse il fascismo. Questo avveniva nel 19, manco due anni dopo, queste posizioni in particolare sul divorzio, sulla famiglia borghese, vennero abbandonate, intanto perché c'era il movimento dei reduci con cui il fascismo si alleò, e poi c'era un antifemminismo cattolico rurale diffuso già prima in Italia con cui il fascismo legò subito, tanto che i moti, diciamo le azioni fasciste contro le leghe e le cooperative socialiste del 20 e del 21 furono appoggiate dagli agrari, ovviamente, per cui diciamo il fascismo perse subito questa connotazione eversiva nella quale poi appunto peraltro per le donne forse non c'era granché di interessante. E quindi diciamo dal 23 la misoginia fascista si espresse con forza, galvanizzata anche dall'autoritarismo del Partito Nazionalista, che era alleato appunto di Mussolini. E dal 23 in poi l'interesse dello Stato diventa la cosa principale a cui assoggettare tutti gli altri diciamo particolarismi, e in questo progetto furono anche mobilitati gli antropologi criminali, gli psicologi, gli psichiatri, allora gli studiosi di igiene sociale, i medici, insomma, che anche loro prima erano scarsamente rappresentati dallo Stato, e si unirono tutti in questo progetto di miglioramento della stirpe italiana, mettiamola così. E poi un'altra periodizzazione, ma poi insomma su questo ci torniamo, è il concordato con il Vaticano del 29. Eccola là che la Chiesa Cattolica si dedica proprio al rafforzamento dell'antifemminismo fascista. C'è questo connubio Chiesa e fascismo che ci portiamo dietro anche adesso. Insomma, l'Italia ancora oggi è un laboratorio di pensiero clerico fascista, diciamo. Vogliamo fare un piccolo stacco musicale? No, mi fate cenni? Sì, sì. E poi riprendiamo. They poured across the border. We were cautioned to surrender. This I could not do. Riprendendo il discorso da, in qualche modo dalla immissione nel regime di, come dire, delle nuove scienze moderne, quindi degli antropologi, degli psichiatri, degli studiosi di igiene sociale, dei medici, che da una parte danno, come dire, appunto un'aurea di modernità e di, quindi di seguire la scienza e di applicare le teorie più moderne nel nuovo stato fascista, ma dall'altra parte anche di utilizzare queste scienze come strumenti di controllo attraverso i manicomi e eccetera eccetera, possiamo anche vedere come di fatto il fascismo, insomma, e questa è anche cosa nota, è stato un regime con un apparato repressivo e di controllo vastissimo, che non era soltanto nelle mani delle squadracce delle camicie nere, ma era proprio un apparato di Stato, sì. Costruito dalla polizia, dall'arma dei carabinieri, ma anche da una trentina di diversi servizi politico-informativi che facevano capo alle varie milizie, e a un esercito di informatori, confidenti, delatori, e tra queste anche le visitatrici fasciste, che erano delle sorte di assistenti sociali che si occupavano in specifico delle donne, e quindi dovevano andare soprattutto, diciamo, tra le classi meno abbienti a portare aiuti, ma erano anche d'altro canto delle spie del regime sostanzialmente. Tutto questo serve appunto per far osservare, per far rispettare le prescrizioni dette, scritte e non scritte, anche quelle che riguardavano, diciamo, la vita più intima delle italiane, cioè quella della le scelte sessuali, la moralità e anche all'interno, insomma, della vita coniugale. Su questo appunto agivano da una parte gli psichiatri che stabilendo la normalità e l'anormalità, la patologia eccetera, che quindi potevano internare nei manicomi con facilità devianti e sovversive, definendo loro ovviamente chi erano le devianti e le sovversive. E di fatto il potere fascista si presenta come un potere estremamente intrusivo che utilizza una triade molto potente, cioè Stato, Chiesa e Scienza, il prete, il carabiniere e il medico. Figure che le donne hanno imparato a temere saggiamente. E tutto ciò serviva per proteggere l'istituzione che veniva almeno nella retorica messa al centro, cioè quella della famiglia. Difendere la famiglia significava ovviamente difendere l'ordine sociale, è anche ordine sessuale naturale, nell'interesse appunto della società soprattutto nell'interesse dello Stato. La vigilanza veniva esercitata quindi da parte dell'autorità maschile su tutte quelle figure di donne che potevano rappresentare devianze, e quindi zitelle, prostitute, levatrici, lesbiche, eccetera eccetera. Veniva appunto, di fatto tutto ciò serviva per rinsaldare un potere che si reggeva ovviamente sullo sfruttamento socio-economico di un sesso sull'altro. In questo il fascismo, l'abbiamo già anticipato prima, è stato comunque un regime dalle mille contraddizioni, dalle mille contraddizioni, per esempio per quanto riguarda le donne. Da una parte le voleva a casa, a casa, e dall'altra però le organizzava in organizzazioni di massa, chiedeva loro delle qualità virili, ma poi stigmatizzava fortemente le maschiette, non dovevano lavorare, ma di fatto morivano di fame senza lavorare, e questo magari poi lo vediamo meglio. Però di fatto, attraverso proprio il concordato, che era quello con cui ci siamo lasciati prima dello stacco musicale, passa l'idea cattolica della sacralità del matrimonio e della figura della madre come la figura centrale a cui le donne italiane si devono assolutamente uniformare. È curioso, perché in effetti anche oggi noi stiamo continuamente ripetendo cose su questo impianto, che alla fine effettivamente è rimasto questo. Sarà perché abbiamo anche la Chiesa Cattolica, ma insomma. Sì, il fascismo appunto poi aveva questo doppio regime, per cui da un lato propagandava delle riforme in un certo senso, e quindi per esempio nel 25 diede vita all'Opera Nazionale Maternità Infanzia, che doveva avere appunto scopi filantropici eccetera, ci lavoravano le donne gratis come volontarie. Poi dall'altro promulgava il divieto di aborto, che divenne un crimine contro lo Stato, la messa al bando del controllo delle nascite con tutte le conseguenze del caso, la censura sull'educazione sessuale con tutte le conseguenze del caso, l'imposta sugli uomini celibi, quindi gli avanzamenti di carriera per gli uomini con la famiglia numerosa, che poi appunto significava una discriminazione per tutti gli altri, e quindi andava su questo doppio. Da una parte faceva una propaganda di un certo tipo, e poi dopo invece sulle misure repressive non ci andavano leggeri. E anche sul carattere pubblico dell'istituzione familiare, in realtà il fascismo ne ha accentuato o accurato solo gli aspetti repressivi, perché poi di fatto alle donne dentro la famiglia non forniva nessun aiuto, e quindi insomma le incastrava anche in contraddizioni difficili da sciogliere. Ci sono molte cose da dire, non so se vogliamo mandare anche il contributo di Nicoletta. Mandiamo il contributo e poi magari... Perché dopo, appunto, parlando di politiche familistiche del fascismo, Nicoletta poi Di Mani, che ha scritto e studiato molto sul fascismo che su anche la nuova destra, ci parla un pochino, ecco, di come il fascismo ha inquadrato diciamo appunto le donne nel suo pensiero. E vabbè, facciamo parlare direttamente lei, con una coda anche sull'attualità importante, insomma. Sull'impostazione, insomma, fascista, parliamo del fascismo del ventennio, rispetto alle politiche sulle donne, sicuramente un'influenza molto molto forte l'ha avuta Ferdinando Loffredo. Loffredo era un fondamentalista cattolico, laureato in economia all'Università Cattolica di Milano, e nel 1938, cioè nel pieno periodo delle leggi razziali in Italia e nelle colonie, scrisse questo libro che era Politica della Famiglia, un libro da cui Loffredo auspicava venisse poi fuori una carta della famiglia ufficiale da parte del regime di Mussolini, cosa che in realtà poi non successe e che avrebbe in qualche modo dato proprio l'impostazione definitiva alle politiche familiste del regime. È molto interessante andare a rivedere questo testo di Loffredo, Politica della Famiglia, per varie ragioni. Innanzitutto per il tipo di taglio che lui dà e la lettura che dà del ruolo della donna, dove diciamo la questione centrale è quella di restaurare la sudditanza della donna all'uomo, ma intesa non soltanto come una sudditanza di genere, ma anche una sudditanza della donna rispetto al ruolo riproduttivo e quindi alle politiche razziste del regime. Cioè la donna non deve avere sostanzialmente come dire, nessuna libertà di azione, nessuna istanza emancipatoria, anzi ogni istanza emancipatoria è qualcosa che va contro le politiche demografiche necessarie per una potenza come doveva essere l'Italia di Mussolini. E restaurare questa sudditanza significa appunto che la donna torna ad essere totalmente asservita all'uomo e anche allo Stato. Ricordiamoci che Stato in quel momento significa anche Stato razzista. Ora, leggendo questo libro, io me lo stavo rivedendo perché per un po' di anni non l'ho più toccato, sai, certe cose sono anche un pochino, come dire, stomachevoli nello stomaco, esatto, esatto, però ci sono delle cose, vi vorrei leggere alcuni passaggi, alcune chicche. Per esempio la sua tirata contro l'attività sportiva delle donne, perché poi va a guardare Loffredo minuziosamente, no? Quella che può essere la vita quotidiana di una donna, il lavoro, gli interessi, lo sport, eccetera. E dice: la partecipazione ad attività sportive determina l'allontanamento dalle pareti domestiche, conduce alla distrazione spirituale e fisica dall'idea della famiglia onesta. Crea, con l'aggravante dello sfoggio del fisico, un'esaltazione delle attrattive del corpo che, sopravvalutando l'idea erotica del piacere sessuale, porta un indebolimento di quelle qualità morali e sentimentali che avvicinano la donna all'idea della famiglia e dei figli. Non si può negare che l'esercizio fisico della donna possa essere un favore di elevamento della razza. Questo ricordiamo appunto il valore che per Mussolini, per il regime di Mussolini, aveva la ginnastica, ma un certo tipo di ginnastica, no? E infatti appunto Loffredo dice: ma è certo che quando tale esercizio esce dai limiti della più seria ginnastica scolastica e diventa sport, agonistico o non agonistico, dà luogo ad agli accennati difetti. E poi aggiunge: lo sport femminile, che contrariamente a quanto può avvenire nei limiti della ginnastica scolastica, costringe alla perdita del pudore e va invece d'accordo con il culto della maschietta, che vuole il corpo della donna disadatto alla maternità. Su questa questione del culto della maschietta io avevo scritto, e invito chi fosse interessato ad approfondire, proprio un intervento, un breve saggio nel libro collettivo Fuori della Norma, sul fantasma della lesbica, su come il regime di Mussolini lo utilizzasse. Ma tornando al testo di Loffredo, questa tematica del pudore è fondamentale. Non dimentichiamolo, ribadisco che lui era appunto un integralista cattolico, no? Quindi questo elemento del pudore è sostanzialmente la garanzia del controllo patriarcale del padre, del marito e dello Stato sulla donna. Per cui Loffredo afferma: sia nella famiglia che nella società il pudore è un'imponente forza demografica, no? Quindi ha un ruolo fondamentale questo pudore. Ovviamente pudore significa poi controllo di tutti i comportamenti delle donne. E quello che è anche interessante è che nel testo Politica della Famiglia Loffredo sottolinea come l'Italia e la Germania, l'Italia fascista e la Germania nazista, siano in Europa i due stati, le due nazioni che stanno facendo la più seria politica rispetto alle donne. Non ne avevamo dubbi. Naturalmente in tutto questo, in tutta questa logica fondamentale è anche allontanare le donne dal mondo del lavoro, proprio perché il lavoro, a parte che appunto è inutile il lavoro delle donne, ma poi appunto il lavoro distrae le donne, ma le rende anche autonome, distrae le donne dalla famiglia, ma le rende in qualche modo anche economicamente autonome, e questo non va assolutamente fatto. Leggo un altro passaggio. L'esperienza ha dimostrato che l'apporto dato dalla donna emancipata allo sviluppo della civiltà è negativo. L'emancipazione della donna, mentre non ha prodotto vantaggi apprezzabili nel campo delle scienze e delle arti, costituisce il più certo pericolo di distruzione per tutto quanto la civiltà bianca ha finora prodotto. Cioè, gravissimo, veramente pericolosissima questa emancipazione delle donne. Come la donna non emancipata era fattore indiretto di progresso, così la donna emancipata è fattore di arretramento della civiltà. La donna deve tornare sotto la sudditanza assoluta dell'uomo, padre o marito, sudditanza e quindi inferiorità spirituale, culturale ed economica. Direi che questi sono passaggi, insomma, che ci danno un quadro assolutamente chiaro di quello che è il posizionamento di Loffredo. Ora io non sto a leggervi altri brani, invito chi fosse interessata a leggerselo, ripeto, anche se è un pugno nello stomaco, ma quello che mi interessa ora sottolineare è innanzitutto appunto che Loffredo con questo libro si conquistò la cattedra di demografia all'Università di Perugia, ma non solo, cioè noi diciamo un personaggio che ha scritto delle robe così terribili, sicuramente dopo il fascismo lo avranno allontanato, lo avranno fatto fuori in qualche modo. No, assolutamente. Lui già in epoca fascista lavorava per quella che era allora l'INPS e continua a lavorarci anche dopo l'epoca fascista, anzi sarà proprio Loffredo, che tra l'altro fu assai longevo, insomma visse quasi 100 anni, per cui di cose terrificanti ne ha potute fare tante, è stato proprio Loffredo che ha posto le basi per il welfare attuale dell'Italia, cioè proprio lavorando all'interno dell'INPS, dove lui era capo servizio ed era anche direttore di questo, di questa rivista bimestrale dell'INPS, Previdenza Sociale, no? Quindi questo ci fa anche ragionare su come tanti personaggi, tra cui anche Loffredo, una volta come dire, abbattuto il regime fascista, siano stati riciclati e come siano riusciti a dare un'impronta forte anche all'Italia repubblicana. Loffredo poi lavorò anche per Confindustria, oh ma guarda, per chi fosse interessata io consiglio di leggere un'intervista che gli è stata fatta meno di una decina di anni fa e che è riportata in orientamentistorici.blogspot.com. È proprio interessante perché è Loffredo stesso a parlare della continuità della sua figura e del suo pensiero tra il periodo fascista e la Repubblica. Per esempio con la sua partecipazione anche ai comizi dell'MSI, a cui lui era particolarmente affezionato. Non dimentichiamoci tra l'altro che Loffredo scrisse anche sulla difesa della razza e segretario di redazione della difesa della razza era stato Giorgio Almirante, no? Quindi i cerchi si chiudono. Ma non solo. Loffredo in epoca repubblicana, negli anni 60, fu dirigente del Fronte della Famiglia, che era un'emanazione dell'Azione Cattolica, quella che diciamo si batté più ferocemente contro il divorzio. Quindi appunto una estrema continuità nella sua storia, una continuità appunto che è arrivata fino al nuovo millennio, e io direi che su queste cose c'è molto da riflettere, e non deve stupire se appunto passaggi molto simili, insomma, ai punti fondamentali della politica della famiglia di Loffredo, magari in termini un po' meno feroci, ecco, no? Perché oggi non ci si può più permettere quei termini e bisogna essere più politically correct, però li troviamo per esempio nella posizione che gruppi come Forza Nuova o Fiamma Tricolore hanno rispetto al ruolo della donna nella società e alla centralità della famiglia. In certo modo, se vogliamo vedere, anche il gruppo politico femminile della Lega Nord non è lontano da questo tipo di posizionamenti, anche se naturalmente per la Lega Nord il discorso della centralità dello Stato è ovviamente marginale, no? Mentre lo è molto, è centrale invece in gruppi neofascisti, appunto, come dicevo, come Forza Nuova e come Fiamma Tricolore. Quindi c'è una assoluta continuità e io direi che è importante averla chiara questa cosa. Sì, anche con mi senti? Anche dico con un ruolo importante della Chiesa che garantisce questa continuità, insomma, in Italia in particolare. Sì, esatto, infatti questo lo saltavo per non dilungarmi, ma giustamente tu lo richiami e non è un caso che per esempio nel famoso lexicon vaticano le posizioni che ci sono che riguardano le donne sono molto simili alle posizioni di Loffredo, ma così come appunto questo gruppo politico femminile della Lega Nord, se si va nel loro sito internet, riporta proprio una frase di Benedetto XVI sulle donne, sul ruolo della donna, che naturalmente, voglio dire, Benedetto XVI non è di certo un pensatore dell'emancipazione delle donne, anzi tutt'altro. Per cui sì, sicuramente diciamo, il pensiero cattolico più integralista è fortemente ancora legato a questi posizionamenti di Loffredo, non si è spostato di una virgola, ma ripeto, appunto, Loffredo lavorò anche insieme all'Azione Cattolica, quindi non c'è solo una ripresa di tipo ideologico, ma c'è una vera e propria continuità. Sì. Senti, forse visto che appunto il pretesto per queste trasmissioni è stato quello che abbiamo definito lo sdoganamento della destra anche estrema in molti ambiti, insomma, anche in parte di legati in qualche modo al movimento, forse a te possiamo chiedere se ci aiuti comunque a allargare il panorama, ecco, delle cose che noi sappiamo abbiamo nella trasmissione scorsa individuato, parlandoci un po' di come tu percepisci, insomma, questa pervasività di queste idee o di posizioni comunque di destra o di protagonismi di persone di destra nella società italiana oggi. Sì, volentieri, anche perché appunto io ho ascoltato il podcast della scorsa trasmissione e già mentre lo ascoltavo mi veniva in mente una serie di cose, la prima delle quali, ad esempio, noi giustamente, no? Cioè voi e io, insomma, noi compagne, diciamo il femminismo non può che essere antifascista, ma poi se andiamo a vedere dei dati di fatto purtroppo non è così. Faccio un esempio per tutti. Nel sito dell'Università delle Donne di Milano, quindi insomma di un'istituzione che c'è da molto tempo, è riportato un intervento di Miro Renzaglia che si intitola "Violenza, la parola ai maschi", quindi un posizionamento molto simile a quello di Maschile Plurale, che infatti Miro Renzaglia cita spessissimo. Ma chi è Miro Renzaglia? Miro Renzaglia è il direttore del magazine online Il Fondo, dove sono ospitati articoli di Gabriele Adinolfi, noto terzo posizionista, e dove sono pubblicizzati libri fascio-futuristi. Si è anche candidato con a Latina con questa lista Pennacchi per Latina, e il suo slogan era ribonificare Latina per bonificare l'Italia. Naturalmente Renzaglia era anche uno dei firmatari del famoso appello che fecero Sansonetti, insomma il suo giornale, e gli altri per la libertà di manifestazione di Casa Pound. Questo appello, che è ritirato fuori recentemente, ha suscitato delle polemiche dal mio punto di vista anche molto sterili, però ecco, l'Università delle Donne ospita un intervento di Miro Renzaglia. Tra i firmatari, tra l'altro, di quel famoso appello ce ne sono tanti, insomma, di questo, come dire, spessore neofascista. E giustamente la Cernigoi, Claudia Cernigoi, ha scritto un articolo dove un po' va a vedere chi sono i vari firmatari, quindi non semplicemente l'elenco dei firmatari che dice tutto e niente, ma anche chi sono e che storie hanno, no? E questo articolo si intitola "Tutti gli amici di Casa Pound, da Sansonetti ai fascisti anni 70" ed è stato pubblicato su Terre Libere, ed è estremamente interessante proprio perché sostanzialmente per chi si occupa di fascismo e neofascismo è lampante vedere una bella rassegna di terzo posizionisti. Che li possiamo anche chiamare terzo posizionisti del terzo millennio, non lo so. Allora, partiamo magari dal ricordare così chi è, che cos'era terza posizione, perché forse ci può dare, come dire, uno strumento di lettura, di interpretazione, no? Terza posizione nasce nel febbraio del 76 a Roma, in un covo di fasci che si chiamava Libreria Romana, dove si tiene una riunione a cui partecipano appunto Gabriele Adinolfi, Peppe Dimitri, che oggi è un collaboratore di Alemanno, e Roberto Fiore. Loro con questa riunione creano un movimento che si chiama Lotta Studentesca, esattamente il nome del gruppo studentesco di Forza Nuova attualmente, no? Ha lo stesso nome. E questo movimento ha una rivista periodica che si chiama Per la Terza Posizione. Dopodiché Terza Posizione diventa il vero e proprio nome del movimento nel 78. Ma chi c'era dentro questa lotta studentesca o terza posizione, che dir si voglia? Ci troviamo militanti di gruppi già sciolti per apologia di fascismo, tipo Ordine Nuovo, Avanguardia Nazionale, Lotta di Popolo e Fronte Studentesco. Terza posizione è ispirata in particolare al pensiero di Julius Evola e Franco Freda, quindi insomma due nomini non da poco, e si richiama la tradizione del cosiddetto fascismo rivoluzionario e del nazismo. Ripeto, Fiore stava dentro terza posizione, così come oggi Adinolfi sta dentro Forza Nuova. Il terzo posizionismo è un posizionamento molto molto ambiguo, se lo vogliamo sintetizzare, dove in teoria dovrebbero convergere i cosiddetti opposti estremismi. Però attenzione, questa è una banalizzazione che è anche una falsificazione, perché in realtà l'obiettivo del terzo posizionismo è in qualche modo abbattere completamente l'antifascismo, no? Dicendo non ci deve essere più differenza appunto né rossi né neri, no? Come portavano in corteo lo striscione, quello di blocco studentesco, in realtà significa abbattere completamente l'antifascismo, cioè essere anti-antifascisti. Questa cosa quindi vediamo nasce già negli anni 70, ma ci sono anche dei fatti più recenti che hanno sdoganato sicuramente molto più dell'appello di Sansonetti and Company i gruppi neofascisti. Rammenterete voi compagne, perché cominciamo ad avere tutte una certa età, la famosa questione del campo antiimperialista. Ad un certo punto nel campo antiimperialista, nel nome dell'antiimperialismo e dell'anti-americanismo, incominciano a comparire personaggi anche della destra estrema e anche dirigenti della destra estrema. Per esempio Maurizio Neri, direttore della rivista Comunità e Resistenza, leader dei cosiddetti comunitaristi, che è stato coinvolto anche nelle indagini per la strage di Bologna ed è stato un ex dirigente del movimento sociale Fiamma Tricolore e si è anche presentato alle elezioni con Kilger. Ma ci sono poi altri personaggi che vengono invece dalla tradizione, diciamo, della sinistra marxista anche ortodossa, gente come Costanzo Preve o Gianfranco La Grassa, che a un certo punto cominciano a dire: siamo anticapitalisti ma non siamo antifascisti. Ed è noto appunto che Preve, spesso invitato appunto agli incontri del campo antiimperialista, collabora regolarmente con riviste e case editrici della destra radicale, per esempio Eurasia e Orion, oppure la casa editrice Edizione all'insegna del Veltro, oppure le edizioni Settimo Sigillo, che sono, guarda caso, di nuovo vicine a Franco Freda, al neonazista Franco Freda. Quindi vedi che tutto in qualche modo si tiene. Questa area comunitarista che viene fuori e incomincia, come dire, a acquisire proprio importanza non solo col campo antiimperialista, ma incomincia anche ad affascinare, oltre che a confondere, determinati ambiti di sinistra, è un movimento, come viene definito, ibrido di estrema destra. Eurasia, questo progetto Eurasia, è un progetto di destra estrema fortemente razziale. Ci sono poi altre forme di sdoganamento, sempre dal mio punto di vista terzo posizioniste, come il Movimento Zero di Massimo Fini, che si dichiara oltre la destra e la sinistra, ma si richiama a De Benoist, che è il fondatore della nuova destra, teorico della nuova destra francese, che poi è la destra estrema francese. Quindi ecco che mi sentite? Sento sì, sì, noi ti sentiamo. Ah, ok. Ecco che quindi vediamo una serie di personaggi, come dire, spostarsi da una sponda all'altra con estrema nonchalance, e diciamo che la cazzatona che fecero Sansonetti e tutto il gruppo di giornalisti degli altri non è stata che la punta dell'iceberg dopo un lavoro che andava avanti da più di un decennio. Da questo punto di vista io consiglio, se posso appunto continuare la lettura, ma giusto perché io faccio delle estreme sintesi, poi immagino e spero sempre che ci sia chi vuole approfondire, di andare a vedere su Carmilla Online un intervento di Valerio Evangelisti che si intitola I Rosso Bruni, vesti nuove per una vecchia storia, che è estremamente interessante e racconta appunto proprio di questi spostamenti. Dopodiché ricordiamo anche un'altra cosa: si è tanto parlato del giornale Gli Altri, ma ricordiamo che una delegazione del giornale Il Manifesto nel 1980 partecipò ad uno dei campi Hobbit, ne furono fatti tre dal fronte della gioventù, dall'area rautiana del fronte della gioventù. Ecco, a uno di questi andò anche a partecipare una delegazione del manifesto, no? In una discussione appunto in cui si parlava sostanzialmente di cercare di far nascere un nuovo spirito di comunità e di superare le vecchie identità politiche. Quindi insomma è da più di 30 anni, è da 40 anni che questo lavoro è in ballo. Ha avuto dei momenti di sdoganamento più forte, appunto, di cui torno a fare il nome, il campo antiimperialista, ma c'è stato per un lungo, lunghissimo tempo un lavoro sotterraneo. Allora ci deve far preoccupare moltissimo la presenza di interventi di fascisti del nuovo, del vecchio millennio, poco ce ne frega, sempre fascisti sono, anche in ambiti femministi come quello dell'Università delle Donne. E giustamente voi ricordavate nella scorsa trasmissione come dal corteo contro la violenza sulle donne del 2007 a quello del 2008 sia scomparso il termine antifascista, per poi arrivare, vabbè, alla come dire, manifestazione delle se non ora quando, dove addirittura abbiamo la Perina, che è la ex direttrice del Secolo d'Italia, quindi del giornale fascista, che viene chiamata a parlare sul palco, oltre alla Buongiorno e alla Suora, che già avete ricordato anche voi, no? Ecco, allora la mia domanda è anche in situazioni come quelle, quella della manifestazione del 13 febbraio delle se non ora quando era chiarissima già dall'inizio da questo punto di vista, no? Sì. Non solo nel richiamo all'italianità delle donne eccetera, ma proprio sì, nelle diverse soggette che sostenevano questa iniziativa. Ecco, com'è possibile andare in piazza con costoro anche con un posizionamento critico? Secondo me queste iniziative vanno boicottate, vanno denunciate per lo sdoganamento che fanno e punto, ma non si dovrebbero vedere compagne in piazza. Questo è il mio punto di vista, che infatti poi in piazza il 13 febbraio non ci sono assolutamente andata, no? Però ecco, io credo che se non facciamo attenzione e che se pensiamo che dichiarare un posizionamento critico sia sufficiente quando poi sul piano mediatico si è lì semplicemente a fare il numero e a fare il gioco anche di questi sdoganamenti, bah, insomma, sarebbe bene pensarci due volte prima. Eh sì, e poi vista anche la situazione generale in Europa, forse riflettere bene su questi argomenti adesso è allora, questo era l'intervento registrato di Nicoletta Poidimani, che appunto, lo ricordiamo, ha scritto anche forse più di un libro, io ne ricordo uno, Difendere la razza, ma insomma comunque era il suo contributo utilissimo, che però ci ha portate, diciamo, alla fine di questa trasmissione. Anche noi abbiamo cose da dire, quindi la rimandiamo alla prossima settimana. E continueremo quindi a parlare del fascismo, le donne, le lesbiche, parleremo anche la prossima settimana se abbiamo il tempo. Eh sì, un soggetto, un argomento infinito. Eh sì. Sì, continuiamo, perché ci sono rimaste fuori una serie di cose che ci premeva dire, perché appunto oltre a tutto l'argomento che riguarda le lesbiche, di cui parleremo perché ci interessa particolarmente, ma anche perché sono spesso una cartina attorno a sole rilevante per quanto riguarda poi l'autodeterminazione delle donne. Ci sono anche, volevamo anche spendere qualche parola rispetto alle politiche del fascismo sul lavoro delle donne e sulla scuola. la prossima settimana. Grazie, ciao. Ciao. Ciao. La lotta armata in Il Ribelle a 17 anni, partigiano combattente a 17 anni. A 21 anni. A 20 anni. 22. 20 anni. 33. A 20 anni. Sentiamo l'amore per la patria.